Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno, buongiorno, buon inizio settimana, buon sabato piovoso a Milano, ma sicuramente irradiato da un sole quasi radioattivo nel resto d'Italia. Non pensi, era radioattivo il sole quando stavi venendo in studio, caro? No, io oggi sono venuto in macchina perché doveva piovere, non piove. Ah, vabbè, ma siamo imborghesiti qui. Ma come, niente motocicletta sotto la pioggia? Avevo troppi giri da fare, non avevo voglia di mettermi la tuta, dai. Vabbè, mettiamola vabbè, così. Vabbè, a una certa età si fa così. Comunque, cari radioascoltatori, buon inizio settimana. In questo sabato 16 settembre sono le 10:08 primi e 22 secondi fino a mezzogiorno con noi di Conti della Belva, il solito aperitivo più amaretto che dolcetto del fine settimana. Di che cosa parliamo oggi? Ve lo dico subito, così potete iniziare a chiamarci all'800 24 00 24 per gli sms, lo sapete, 3492 386 666. Allora, all'inizio abbiamo la solita ma mai scontata rubrica, il nostro appuntamento con Mario. Mario, tra l'altro, sei collegato? Sì? Sì, sì, sono qua, buongiorno a tutti. Anche piove, anche da dove sei? Ha piovuto ieri, in questo momento è coperto. Perché a Cesena in questo momento, diciamo, i nostri ascoltatori. Quindi noi cominciamo come sempre con la rubrica su il punto della settimana con Mario Seminerio, dopodiché dalle 10:30 iniziamo un altro pezzo del percorso su come stanno messe le imprese che abbiamo intrapreso sabato scorso dopo la nostra pausa agostana. Questo sabato la domanda è: cari piccoli imprenditori italiani, ma voi internet, la rete, sapete davvero usarla abbastanza bene? Cioè, vuol dire nell'organizzare clienti e fornitori, A, B, nella valorizzazione del brand, C, nel marketing, nel commerciale, oggi, e soprattutto nella ricerca dei nuovi collaboratori. Ma voi siete bravi a usarla? Oggi prima lezione HR, risorse umane, dai. Risorse poi, umane. Poi andremo avanti. No, ma certo, perché il tema è molto importante, però ci siamo detti, cari ascoltatori, qui tutti sono lì già a fare il bilancio degli super incentivi per Industria 4.0, la sensoristica verticalmente, orizzontalmente, in tutte le fasi della produzione. Vediamo un po' le questioni basiche all'inizio, come sta messa la capacità che si legge nei dati. Infatti ci aiuterà chi appunto organizza la lettura dei dati per le imprese, da buoni consigli, ad ecco, sarà con noi e ci dirà, ma nel capire di chi c'è bisogno e nello sceglierlo, la rete viene utilizzata dalle imprese italiane? Questa è la prima domanda da cui partiamo oggi. Poi naturalmente faremo un po' il punto con il nostro amico Carlo Alberto quando e se si manifesterà in studio, perché io devo violentemente legnarlo su una questione, perché ricordate che noi la scorsa settimana ci siamo occupati delle bollette a 28 giorni, l'Agicom questa settimana ci ha dato ragione, o meglio ha dato ragione a noi, ma Carlo Alberto era in dissenso, e quindi noi torneremo brevemente sulla questione delle sanzioni che sono state annunciate dall'Agicom per le compagnie di telefonia fissa sulla bolletta fino a 28 giorni, e sentiremo se, credo di sì, perché sulla rete così ha fatto, lui ancora difende il diritto delle bollette a 28 giorni. Poi, dopo le 11, riflessione sullo spesometro, gli obblighi trimestrali di comunicazione, cari autonomi in ascolto, tra cui io, e quindi con un amico commercialista vedremo se dopo, come sempre, i tonitruanti annunci dello Stato e di rinvio in rinvio, stiamo andando verso fine anno, come sta messa questa nuova odissea per noi poveri lavoratori autonomi, poveri nel senso che inseguire lo Stato nei suoi annunci, poi nei nuovi software necessari di volta in volta per ottemperarne l'obbligo, poi nel loro ritardo, poi nella nuova concessione di una proroga, beh, c'è da impazzire, ma comunque vediamo a che punto siamo su questo. Poi per la rubrica invece il passato, io non voglio dire il rottamato, ma ci siamo intesi. Oggi, come la scorsa settimana, avevamo l'ex ministro Leghista Pelli con noi, un personaggio della politica per lungo tempo della vita politica italiana, Claudio Martelli, a cui chiederemo dal suo punto di vista, osservando in maniera discosta ma sempre usando la testa, cosa pensa del deficit di cultura politica ed economica, se lo ravvisa questa seconda repubblica, visto che la sua area culturale rappresentata direttamente non c'è più. Per chiudere poi con Udo Gumpel, come sempre, entra caro Alberto, entra, che credevi che non dicessi che era in ritardo? Lo scolaro in ritardo si becca la nota, caro Carlo Alberto. Domani accompagnato dai genitori. Allora Mario, che altro vuoi segnalare di questa settimana? Ma io non segnalerò le montagne russe del Bitcoin, perché vabbè, sono autoevidenti. No, i cinesi si stanno mettendo d'impegno per stroncare il movimento di creazione dal nulla, no? E per cui magari faremo qualche cosa di dedicato. Però una cosa altrettanto esoterica che mi ha colpito questa settimana è che l'equivalente del Ministero dell'Interno degli Stati Uniti, quindi il Dipartimento della Homeland Security, ha introdotto il divieto per le agenzie federali americane di usare il software di una famosissima azienda il cui proprietario è russo, e cioè la Kaspersky Lab. Ora, dicendo che potrebbe la Kaspersky avere legami con le autorità russe e quindi potrebbe agire da cavallo di Troia per rubare importanti informazioni alle agenzie federali americane. Ora, perché io vi segnalo questo, ripeto che è un po' esoterico e non molto pop, perché a me viene da ridere se penso che solo pochi mesi fa, e qualcuno forse lo ricorderà, il signor Trump aveva lanciato l'idea di una task force congiunta tra Russia e Stati Uniti per combattere il cybercrime. Già, notizia che all'epoca aveva fatto scompisciare molti dal ridere, era la fase in cui Trump non riusciva ad evitare di esprimere il suo amore per la Russia. Ora che Trump è stato accuratamente transennato dal generale Kelly e non solo, e sta venendo sterilizzato e messo in sicurezza, escono anche notizie di questo tipo, cioè che la povera Kaspersky, che serve 400 milioni di utenti in tutto il pianeta, potrebbe essere un cavallo di Troia di Putin. Quindi, tra l'altro voglio dire che è bastato 2 settimane fa, quando è uscito il primo report, perché questo viene da uno sviluppo di audizioni dei vertici della sicurezza americana al congresso, questa cosa qua. Quando 2 settimane fa l'ho segnalato in Italia, dopo credo neanche un'ora che l'avevo segnalato su Twitter, la Kaspersky Italia mi ha immediatamente contattato. Devo ammettere che sono molto molto molto efficienti, dicendo come mai, ho detto guarda, vi mando i file delle audizioni al congresso, e da quel momento non li ho più sentiti. Però per dire, hai ragione, nel senso che, come evidente, l'uomo briefato da McMaster e Kelly espone poi opinioni leggermente, diciamo così, diverse da quelle che ha esposto sempre, per così dire. Devo ammettere che anche ieri ha perso un'occasione per tenere a freno la lingua, perché il tweet che ha fatto sull'attentato a Londra, cosa ancora fresca, non si capiva nulla, dicendo beh no, ma gli autori sono nel mirino dei servizi di sicurezza britannici, la May gli ha dovuto dire ma stai zitto. Una volta dicevano levate gli il vino, adesso bisogna dirgli levate gli il Twitter. È stemmio, lo sai che lui è stemmio? Sì sì, ma secondo me si droga con Twitter. Con Twitter in questo caso. Va bene, allora caro Alberto, io ho annunciato ai nostri ascoltatori mentre mancavi che ovviamente uno dei pezzi fondamentali della trasmissione di oggi sarà la tua crocifissione sul come è andata la cosa dei 28 giorni in cui abbiamo vinto noi e hai perso tu. Ma non avete vinto proprio un bel nulla. Sapevo. Se pensate che sia così facile convincervi con 4 argomentazzi politici, vi sbagliate come di grosso, cari amici. Comunque vedremo. Vedremo, volevo parlare di Bitcoin. Avete parlato di Bitcoin? No, Bitcoin abbiamo semplicemente detto che la Cina sta dando una mano a capire la vera natura errata. A capire chi? Perché se neanche l'amministratore delegato di JP Morgan capisce di cosa stiamo parlando, siamo messi veramente male, per non parlare della masnada dei politici. No, Bitcoin va su e giù come un ottovolante, come è naturale che sia per un bene matematico, però da qui a cantarne il funerale direi che ne passa, per cui fatemi difendere il principio dell'innovazione. Bitcoin è qui per restare, come lo sono le tecnologie sottostanti, e solo i rosiconi, caro Oscar, vedranno il declino del loro modello di gestione delle monete. Mi dispiace, però, su questo, ma fammi ricordare c'è un tema che non si può liquidare con la tua affermazione papale ex cattedra, perché ovviamente non è così. Noi dobbiamo prendere l'impegno tra noi con i nostri ascoltatori prestissimo, dobbiamo dedicare, e guarda che non basteranno ospiti in mezz'ora, bisogna dedicarci un'ora buona con ospiti di estrazione e visioni diverse, ad affrontare in maniera abbastanza divulgativa una serie di questioni fondamentali. A. Cosa sono le criptovalute? B. Di cosa parlano le ipotesi di valute elettroniche a disposizione delle banche centrali? C. La valuta elettronica a cui sta pensando l'Estonia è l'equivalente di quello che in Italia qualcuno ha definito i mini bot, perché avete queste sono le domande di fondo, per così dire. Cioè, se il mini bot è la domanda di fondo, si è messi proprio bene, caro come Oscar. Esempio popolare, cioè, come esempio popolare così. Di saggezza popolare, no, hai ragione, perché è un tema la differenza importante. È che i mini bot li capiscono molto, mentre invece quello che ha in mente l'Estonia lo capiamo io e te. Allora forse. Senti, spiegami tu i mini bot e io proverò a spiegarti i Bitcoin, vediamo chi ci riesce prima. No, io fammi ho dire solo di, una cosa di chi chiamare per spiegarti i mini no, bot. No non so, però invece avvertiamo le persone che Bitcoin invece come asset class, cioè come ambito di investimento, invece va preso assolutamente con le molle, ecco. Perché altrimenti poi succede che, come no. Ieri sera, caro Mario, che mi dicono: ma insomma, lei un qualche 1.000 euro nei Bitcoin mi consiglia di metterli? Ecco, no, assolutamente esatto, no, esatto. Precisiamo questo aspetto. Allora, impegno preso, ragazzi. Sappiamo che anche su questo Carlo Alberto tenterà di venderci che c'è già il futuro. Il futuro si costruisce con un po' di attenzione, mettiamola così. Invece era della settimana? No, io invece rido perché stamattina prendo il giornale qua di casa, sì. Ho visto che avevamo detto no, assolutamente nessun nuovo condono, mai più nessun condono, l'abbiamo solo cambiato il nome, ma comunque insomma. Come e poi si invece... chiama? E come si chiama? No, ma a seconda delle volte, adesso la chiamano rottamazione, a volte la chiamano rottamazione, dai, si apre, no, bisogna fare un po' di incasso. Un'altra cosa divertente è sul sanatoria bis sulle cartelle. Un'altra cosa divertente invece che ho visto di spalla sull'Eurogruppo, che diceva che non si stanno mettendo d'accordo sulla governance per avere qualcuno che coordini un po' le finanze europee, però si stanno tutti mettendo d'accordo sulla web tax. Non capisco perché sulla governance fanno fatica e sulle tasse ma invece... vedrai che sulla web tax faticheranno molto anche lì, perché l'annuncio è un chiaro intento di volontà politica, ma di qui ad avere uno schema davvero che non rompa per aria i rapporti internazionali dei grandi paesi europei. Se non lo fanno con l'OCSE ce ne corre. Esattamente. Ieri hanno fatto un po' una mezza marcia indietro. Sono chiari i segnali politici. Ecco, quando le autorità e i termini fiscali si usano a scopi politici, scusate, io alzo la mano e dico non sono d'accordo, lo faccio per i 28 giorni, lo faccio forte e chiaro, e sicuramente continueremo a farlo non per la web tax, carissimo. Non confondere la assolutamente web sì. Tax e... Se le aziende si muovono nell'ambito della legge, mi spiace, lo Stato o le autorità devono avere argomenti forti, chiari e convincenti per dire no, fate come diciamo noi, altrimenti finisce la libertà d'impresa. Ma la libertà d'impresa, sono d'accordo e non mi devi convincere, è un conto. Altro conto è adottare i calendari lunari per beccarsi l'8,6% in più. Ma dove l'8,6% in più? Ma sono anni che i calendari settimanali sono in essere nel settore mobile. Ma di cosa stiamo parlando? Comunque c'è un nostro ascoltatore che ci ha mandato un SMS, ci ha detto di farci promotori di una iniziativa per far sì che anche i lavoratori dipendenti vengano pagati ogni 28 certo, giorni. Beh, ma questo diciamo nei paesi anglosassoni la paga a settimana è comune, quindi e tra l'altro la settimana sì, è secondo me è dei tempi della Bibbia secondo me lui vuol fare come quelli che hanno portato a 28. Torniamo e tra uguale. Poco stop ordine il mio piatto migliore quello grande per le pizze Roncadin nel banco freezer vi presenta della belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, non mi preoccupare. Ma no, ma basta con questo pessimismo, con questi gufi, su Carlo Alberto, ma basta con questi gufi. Noi dobbiamo diventare tutti ottimisti, anche Matteo Renzi, come leggete sui giornali di oggi, si è riconciliato col babbuccio, aveva ragione il babbo, è tutta una macchinazione, anzi ieri ha parlato addirittura di un disegno eversivo dello tra virgolette stato profondo. A me è venuto poi a sorridere, naturalmente vedremo, perché anch'io, chiunque non può preoccuparsi di fronte a magistrati e ufficiali dei carabinieri che dicono esattamente l'opposto su chi voleva andare dove con l'indagine Consip, quindi è comunque una cosa molto grave istituzionalmente. Però ieri mi è venuto istintivamente da sorridere pensando che avevamo avuto nel 2011 un premier spodestato che ha detto che era colpa di un golpe internazionale, e adesso abbiamo un premier spodestato che dice che è di un golpe interno la colpa. Sono Beh, abbiamo anche il segretario di un partito che dice che l'applicazione della legge è un attentato alla democrazia. Sono se fatti è per intendersi, caro Oscar. Sono fatti per intendersi. Va bene, però Mario, allora da dove cominciamo? Ma io segnalerei molto rapidamente che nel Regno Unito l'inflazione è arrivata al 2,9%, che i salari reali sono erosi per lo 0,4%, cioè in soldoni la gente guadagna meno di quanto è il passo di crescita dei prezzi, che adesso si stanno mettendo in mente alcuni banchieri centrali della Bank of England che forse è venuto il momento di alzare i tassi. Auguri, visto il livello di indebitamento delle famiglie britanniche, questo sarà veramente un grosso rischio di scuffiata, ma d'altro canto rischiano la stagflazione. Ma a parte questo, io vorrei tornare nel cortile di casa e parlare un attimo del nostro mercato del lavoro, no? Della nostra occupazione e di quello che bolle in pentola con la legge di stabilità. Allora, Istat questa settimana ha pubblicato il rapporto sul mercato del lavoro italiano del secondo trimestre. C'è una cosa che mi ha colpito, al di là di tutti i numeri e le informazioni interessanti che come sempre Istat fornisce. Ora, a parte, non è il fatto che l'80% dei nuovi posti di lavoro sono a tempo determinato, e quindi non è chiaro cosa diavolo c'entri il Jobs Act con la produzione di occupazione, ma questo oramai ci siamo abituati perché ogni giorno ha la sua croce e la sua propaganda, quindi lasciamo perdere. Ma c'è un altro punto evidenziato da Istat, cioè il totale, l'input di lavoro utilizzato dal nostro sistema economico, che si misura con le ore lavorate derivanti dalla contabilità nazionale, è aumentato nel secondo trimestre dello 0,5% e in termini tendenziali dell'1,4%. Se fate caso, questi numeri sono pressoché identici all'aumento del PIL italiano negli stessi periodi. Allora, con una complessa inferenza, visto che la stessa Istat ha detto, in Italia in questo momento esiste una elevata intensità occupazionale della ripresa in corso. Cosa vuol dire questa frase apparentemente esoterica? Che in Italia, con buona pace di quelli che dicono che c'è la cosiddetta jobless recovery, cioè una ripresa senza creazione di occupazione, sta accadendo esattamente il contrario, cioè che l'occupazione cresce in termini pressoché uno ad uno con la crescita del PIL. Ergo, cosa succede sulla produttività? Ergo, la produttività italiana non va da nessuna parte. Quindi, ancora una volta, noi abbiamo il problema di un paese che cresce l'occupazione, aumenta l'occupazione esattamente in linea con il PIL, quindi non è vero che la tecnologia ci sta spiazzando. Poi ieri è uscito sulla voce.info un post molto interessante che spiega come l'Italia sia anomala, perché nel corso degli ultimi anni, mentre gli altri paesi sviluppati europei creavano impieghi polarizzati, cioè o gente molto qualificata trovava lavoro o gente unskilled, in Italia siamo rimasti in mezzo. Quindi l'Italia ha questa anomalia, no? Che crea posti di lavoro che non si sa esattamente di che tipo siano e soprattutto rischiano di persistere nella loro precarietà. Questi sono elementi sui quali bisogna riflettere accuratamente. Fammi precisare una cosa, Mario, vuol dire che i robot non solo non ci rubano lavoro, ma non creano abbastanza valore aggiunto, esatto, da far accelerare il PIL un po' di più della semplice crescita lineare dei, esatto, posti di lavoro tradizionali, esatto, quindi, esatto, non abbiamo abbastanza robot, se posso dire. C'è da dire anche una cosa però, che detto da industriale, conoscendo un po' il giro, una parte del PIL l'abbiamo ripreso reintegrando gli ex cassi integrati dell'automotive. Eh sì, per carità. Quindi, per carità, però, quindi è, gente, però, è gente che è ritornata a produrre nel momento in cui. Del resto l'auto più 39,9% se lo vedi ancora su base annuale. Io voglio ricordarvi. Però, sì, dimmi Mario. No, quello che volevo dire, sicuramente ha ragione Renato, e comunque c'è ampia letteratura sul fatto che durante una ripresa la produttività, diciamo, dovrebbe accelerare, non rimanere stazionaria, proprio per la riattivazione di forze lavoro che erano rimaste inattive durante la recessione. Ma a parte ciò, è vero quello che dice Carlo Alberto, i robot non sono ancora entrati in scena. Ieri c'è un'intervista di Tito Boeri, presidente dell'INPS, sul Corriere a Federico Fubini, dove Boeri dice: attenzione, perché benissimo gli incentivi dell'industria 4.0, però forse bisognerebbe anche correlarli all'assunzione e soprattutto all'investimento in formazione di competenze che possano guidare queste nuove apparecchiature, queste nuove attrezzature di digitalizzazione, perché il rischio, e lo vediamo tutti, è che le imprese facciano questa grande abbuffata di investimenti tecnologici e dopo si ritrovino in azienda competenze che sono insufficienti per gestire il salto di qualità. Non c'è Quindi questo è molto importante. Oltre al fatto che c'è un rebound, poi se questi super incentivi non vengono confermati ma diventano strutturali, però questo insomma sono constellazioni che mi richiamano anche al rapporto Centro Studi Confindustria, che richiamo non per obbligo e dovere, perché me l'ha chiesto l'editore, ma perché comunque il dato rilevante, quello che hanno ripreso i giornali, ha la sua importanza. Cioè questo paese, se fotografiamo ex post, sta messo in questa condizione qua. Oltre all'ottimismo sulla ripresa che si consolida e che resta comunque tra il 25 e il 30% inferiore a quella dell'euroarea, tra 2000 e 2016 l'euroarea, esclusa l'Italia, il PIL ha fatto più 24,4%, l'Italia dal 2000 al 2016 più 0,8%. Il divario è tale, cumulato, che fa pensare ai fattori strutturali, perché ripeto, il dato è dal 2000, quindi non c'entra con il 2008-2011, il dato è strutturale del gap. Allora, identificare A, la produttività, B, e dal punto di vista del contributo all'abbattimento dell'output potenziale, la questione demografica, due punti, corti dei giovani, sia perché ne nascono meno, sia perché se ne vanno sempre di più, sono le due questioni essenziali. Se uno ragiona con un criterio di medio termine e non come vinco le elezioni, con quanti bonus a tempo, vado a non mi rompere il cazzo sul deficit, per favore metti in mano il portafoglio, fai di nuovo la nuova rottamazione, per favore, ma perché volete dire 1,8 di deficit, facciamo il 2,2, il 2,3, il 2,4, il 2,5, perché questo in sintesi è il dibattito sulla prossima legge di bilancio. Allora, questa faccenda qua delle determinanti di medio-lungo periodo, produttività e soprattutto la componente demografica, perché la componente demografica non solo ci dice, cari ascoltatori, che abbiamo bisogno di integrazioni da fuori, ne abbiamo bisogno di integrazioni da fuori qualificate sulle skills, perché il problema che segnalava Mario è un problema di fondo. Altri paesi occidentali le hanno selezionati per skills, gli immigrati, da 15 anni vanno avanti così, l'Australia fa così, la Nuova Zelanda fa così, la Germania quando apre ai siriani, perché i siriani sono quelli che erano i più laureati e così via. Non c'è niente di vergognoso nell'avere una politica per skills formate, non c'è niente di strano, tranne che non lo facciamo, ad avere una politica di attrattività degli studenti stranieri nelle università italiane per farli restare qua, perché le corti demografiche di quelli italiani non ci bastano. Questo è il punto di fondo, colpa anche di Carlo Alberto, che come ovvio non sa attirare studenti. Non è chiaro, che i professori lunedì come lui avevo più del 60% stranieri in aula, guarda, e peccato che si fermano solo 6 mesi o 3 anni. Lui attira solo studentesse. Magari. Fammi dire un'altra cosa, però. Non so se Mario ha commentato del famoso paper del ricercatore di Banca d'Italia, però fammelo dire, perché questa faccenda degli 80 euro, venduta come un contributo di politica economica a rilanciare i consumi, alla fine ha prodotto un topolino molto piccolo, no? Questo 40% di quegli 80 euro è finito, udite, in spesa corrente. Bellissimo, cioè noi usiamo tasse e quindi trasferimenti, per poi far finire il tutto dove? In spesa corrente. Per carità, utile, tutto fa PIL, però Mario non possiamo definitivamente chiamarlo un successo, anche a valle di quei conti molto molto discutibili. Insomma, moltiplicatore 0,3. Sì, ma esatto, a parte questo, però mi pare che non si enfatizzi un concetto vecchio come il mondo in economia, il costo opportunità. Cioè, se questi soldi destinati agli 80 euro fossero stati investiti in altri tipi di azioni, ad esempio la riduzione strutturale del cuneo fiscale, la rimodulazione delle detrazioni per ammorbidire la pendenza della curva IRPEF su redditi medio-bassi, quale sarebbe stato l'impatto? Cioè, se noi continuiamo a cercare la prova scientifica che questi cavolo di 80 euro hanno dato la spinta all'Italia per sollevarsi dalle sabbie mobili tirandosi per le stringhe, penso che non finiremo più. Esatto. Però, e invece noi abbiamo l'obbligo di finire, perché il timer ci dice che siamo andati già oltre i 3 minuti. Della belva. Ed eccoci qua, 10:36 primi, 20 secondi con i nostri compagni dei conti della belva, con Mario che è controllato, controllato, è collegato sempre a distanza. è anche controllato. Lo so, ma in realtà mi è scappato un lapsus, chiedo scusa. Elaborerei su questo concetto, caro Oscar. Chiedo scusa, Bubu mi picchia, io già ho capito come va a finire, mi è scappato un aggettivo grande. Guarda come ridete voi di fronte, gli ascoltatori non sono in grado di capire il disastro in cui mi sono infilato sbagliando aggettivo, va bene. Dopodiché ci abbiamo Renato, Carlo Alberto e caro Alberto e Renato. Carlo Alberto è una parte del consulente, lui insegna strategia aziendale, cioè per quanto possa far sorridere chi è in ascolto, e invece per quanto faccia preoccupare chi è in ascolto, guida un'impresa. Allora, ho come l'impressione che tanto straparlare di industria 4.0, ma torniamo al basic. Qui secondo me voi non lo sapete usare bene. Che dici, sì, Renato? Adesso presentiamo l'ospite, però allora, tu devi prima oggi dire in 30 secondi se li assolvi o no i tuoi colleghi. Io non li assolvo, i miei colleghi. No. Allora, siccome stiamo parlando di internet, stiamo parlando di nuove tecnologie, di industria e soprattutto di lavoro in questo periodo, l'idea che ci è venuta è quella, prendo il posto per una volta di Oscar, l'idea che ci è venuta è quella di invitare… Quindi le paghi le tasse finalmente. Sì, quello… Penso che siamo sulla stessa barca. Di invitare Silvia Zanella, che dovrebbe essere collegata. Ci sei, Silvia? Pronto? Ah, eccoti. Mi sento perfettamente. Buongiorno a tutti voi. Allora, Silvia Zanella, oltre ad essere una donna e mamma, è Global Digital Communication di Adecco, cioè è una signora italiana che è riuscita a fare carriera in una delle principali multinazionali di questo genere, ed è global, che vuol dire dappertutto. E l'idea mia e di Carlo Alberto era quella di invitarla, perché lei ha una visione non solo nazionale, ma una visione internazionale. Di cosme le imprese usano la rete per selezionare collaboratori, capito bene? Esatto. Ultimamente si sta sviluppando tutto un sistema di intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, che ci aiuta a selezionare meglio nella prima fase i collaboratori. E allora l'idea era quella di chiamare qualcuno che di queste cose ne sa e le vede, soprattutto e le vede in paragone, e cominciare a chiederle. Allora, Silvia, prima differenza, tu vedi delle differenze fra gli imprenditori italiani come il sottoscritto, che però di solito non è proprio nella media, della media. Così. E quelle per classi però dimensionali di imprese comparabili dei altri grandi paesi, nostri competitor, dov'è che ci sono segnali di comprensione migliore delle possibilità della rete e dove invece si vedono fallacce proprio cognitive abbastanza evidenti, Silvia? Allora, il tema va innanzitutto sviscerato dal punto di vista dimensionale delle aziende e dall'altra parte dal punto di vista della dimensione geografica. Mi spiego meglio. La situazione rispetto a quelle che possono essere considerate piccole e medie imprese già di per sé ha un tipo di definizione diversa a seconda del paese che viene considerato. Però laddove volessi fare un confronto fra appunto diversi paesi, possiamo dire che la situazione è fondamentalmente omogenea, ovvero il cosiddetto social recruiting e tutto ciò che riguarda l'applicazione delle tecnologie digitali ai processi di ricerca e selezione del personale riguarda soprattutto le grandi multinazionali, che si tratti di multinazionali operanti in Italia o in altri paesi. Quindi, per quanto riguarda l'aspetto dimensionale, sicuramente le piccole e medie imprese sono deficitarie tanto qui quanto all'estero. Dall'altra parte però bisogna dire che mentre all'estero, e mi riferisco soprattutto sia ovviamente agli Stati Uniti, ma anche ai paesi del sud-est asiatico e a tutto ciò che concerne, diciamo, i cosiddetti Nordics, quindi la Scandinavia, ma anche il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo, tutto ciò che è il Benelux, anche in quel caso diciamo, sono sicuramente paesi più avanzati per diversi motivi. In primis per un tema di penetrazione di internet molto più maturo del nostro, penetrazione di internet che ha riguardato in primis tutte le persone, tutti gli utenti finali, ma anche in un secondo momento anche diciamo, il tessuto imprenditoriale, cosa che da noi è avvenuto con molto ritardo. In seconda battuta si tratta di paesi in cui lo stesso mercato del lavoro funziona in maniera radicalmente diversa rispetto al nostro. E in terza battuta sono paesi, riprendendo anche un tema che avete accennato all'inizio della trasmissione, in cui anche determinati tipi di lavoro sono ormai molto più diffusi, quindi un certo tipo di flessibilità, un certo tipo di cosiddetta gig economy è decisamente più ampio ed evidentemente c'è una correlazione tra l'espansione di internet e queste tipologie contrattuali. Io devo dire che sono contrario a una modalità che vedo spesso praticata sulla stampa, anche giornalista molto autorevole, e che diventa poi la modalità in cui magari sulla stampa, tra virgolette, più leggera si tratta di questi temi, cioè i famosi, il professor Carnevale Maffè in pillole, le 8 dritte da dare a chi cerca lavoro per fregare qualcuno, declinando al meglio sulla rete le vostre qualità, perché ridurre la questione a questo è la solita maniera di non capire che la questione, Carlo Alberto, correggimi se sbaglio, è: la rete consente in sé e per sé di sviluppare, prima che di presentare in vetrina, nuove competenze. E questione diversa, chi nelle imprese fa la selezione e la ricerca guarda alle piante organiche, agli investimenti già fatti, o guarda in Italia a quelli ancora da fare? Perché la mia esperienza dice che fa la prima scelta e non la seconda. E questo, c'è un mismatch temporale che dico, beh, ma allora sui nuovi skills se lo fate guardando con lo specchietto retrovisore, sbaglio, caro Alberto? No, non sbagli, ed è vero che c'è un problema di domanda, ma c'è anche un problema di offerta, e qui Silvia ha ragione. Noi abbiamo circa il 23% di forza lavoro con competenze digitali elevate, secondo l'Istat, e la media europea è il 32%, perché abbiamo affidato alla scuola e solo alla scuola il compito di formare competenze digitali. E invece la cosa bella è che internet non è soltanto un contenuto, ma è anche un mezzo, cioè anche un modo per integrare, complementare la formazione scolastica indietro sulla strada del futuro. Qui le università devono ripensare la propria offerta, lo deve fare la scuola superiore, ma posso fare un appello anche ai giovani: non c'è bisogno soltanto di scuola, c'è bisogno anche di accedere a un'offerta didattica e di competenze che è disponibile online. E Silvia lo sa che, insomma, ci sono fior di iniziative. Adecco stessa ha una Digital Academy fatta insieme a, guarda caso, a rami di Confindustria, quindi c'è un tentativo di colmare questo gap. Lato domanda, e torno al tuo problema, è chiaro che le imprese stanno assumendo ancora un po' con lo specchietto retrovisore, stanno comprando persone spesso in maniera temporanea, anche spesso in maniera a corto respiro. Abbiamo visto che non è aumentata la durata media dei contratti di somministrazione in questi anni, lo vedevamo soltanto con il collega la settimana scorsa, e quindi vuol dire che non stanno ancora investendo nello sviluppo strutturale, stanno quindi comprando un po' di tecnologia ma non stanno investendo nello sviluppo, non stanno incorporando competenze in grado di portare la tecnologia dentro ai processi produttivi. Sono mere fruitori di tecnologia e non produttori di tecnologia. Questo è un bel problema. Ma secondo te, Silvia, nelle aziende medio-grandi c'è la competenza da parte dei capi dell'HR sul fatto che bisogna sviluppare delle competenze nuove? Se ne stanno accorgendo oppure sono i primi che guardano nello specchietto retrovisore? Allora, evidentemente lo sprechetto retrovisore è una realtà abbastanza diffusa e comune. Al tempo stesso ci sono evidentemente delle punte di eccellenza che sono, diciamo, proiettate più verso il futuro e hanno un approccio meno tattico. È anche vero però che rispetto all'ecosistema generale, diciamo, delle imprese, non è banalissimo capire quali possono essere le competenze richieste. Quello che era vero 5 anni fa adesso non lo è più. Quindi è vero, e qua mi riaggancio a quanto è stato appena detto, è necessaria una vera e propria riformulazione della propria offerta competenziale, che può andare appunto dall'aspetto prettamente didattico, quello che ho imparato a scuola, ma anche quello che ho imparato facendo dei piccoli lavori, andando magari appunto, come si diceva, ad acquisire online le competenze che mi mancano. Qui però serve davvero un cambiamento radicale di mentalità, non solo del singolo imprenditore o del singolo referente delle risorse umane, i quali in primo luogo sono i responsabili di questo cambiamento, ma serve un ripensamento generale anche da parte delle famiglie, da parte delle istituzioni, da parte delle scuole, da parte degli insegnanti, perché pensare che portare a casa un curriculum di un liceo piuttosto che di un'università bassi è assolutamente fuori tempo massimo, non è assolutamente pensabile che questo possa andare bene. E così come pensare che l'acquisizione di una singola competenza digitale possa preservare il mio posto di lavoro. Non sarà così, non lo era già così 5 anni fa, figuriamoci se lo può essere adesso o in proiezione verso il prossimo futuro. Possiamo dire che sia famiglie che imprese devono insistere con i giovani perché passino più tempo davanti allo schermo, non guardando filmati YouTube, ma imparando contenuti digitali dalla enorme offerta didattica che c'è su internet, e che questo venga esteso a tutti. Lo devono fare le famiglie, lo devono fare le imprese, perché ricadere solo sullo Stato, sulla domanda centralizzata per proporre un'offerta formativa adeguata è assolutamente inadeguato, e i tempi di messa a punto sono assolutamente inadeguati. Quindi bisogna dire alle imprese che la formazione è permanente, non va fatta solo in aula, che i modelli di apprendistato dovrebbero essere affiancati da tutor digitali, anche remoti se necessario, che bisogna organizzare una formazione permanente, altrimenti la crescita non terrà il passo della produttività. Guardate, io non posso, sì, prego, prego. Non posso che essere d'accordo, e aggiungere anche una cosa: il grossissimo vantaggio della formazione online è anche che è disponibile, e anzi prettamente disponibile, in una lingua che non è l'italiano. Quindi il fatto di poter beneficiare di corsi online significa anche migliorare il proprio inglese, significa mettersi diciamo in gioco rispetto a una competenza che in termini di mobilità e internazionale ma anche locale diventa chiave. Quindi è assolutamente consigliato far proprie queste competenze, anche perché trasversalmente ti consentono di acquisire una dimestichezza con la lingua che purtroppo, soprattutto dal punto di vista del business, la scuola non ti può non garantire. Non dà livelli necessari. Traffico, tra un minuto torniamo. Chi gira vuole il canone in bolletta! Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta a 10:49, primi 26 secondi. Il tema è quello rete, complemento necessario per la domanda e l'offerta delle imprese, complemento necessario per la domanda a se stessi e l'offerta di lavoro anche di chi sta sul mercato del lavoro. Io vi invito a riflettere, in un paese in cui il dibattito pubblico sui mezzi di comunicazione, scritti, stampati, online, quello che volete, e ogni release sui dati del lavoro fatta su la stessa, sempre la stessa polemica: quanti sono a tempo determinato e quanti a tempo indeterminato. E mi dispiace, questo è sempre, anche noi dobbiamo proprio imparare a non farci più caso, perché tanto diamolo per scontato, Jobs Act non ha modificato strutturalmente i pilastri percentuali. Ma perché è velleitario pensare di cambiare il modello organizzativo delle imprese per decreto? Bravo. già sono esso completamente dirigismo, d'accordo, no? Sono e completamente comunque d'accordo. Il privilegio dell'uno per l'altro, scusate, per me quello conta è la maturazione delle competenze. In questo senso volevo chiedere a Silvia, no, prego Oscar. No, stavo dicendo solo che quando smetteremo di occuparci solo della durata e capiremo che tipi di lavoro sono, perché alcuni per definizione non possono essere più a tempo indeterminato, no? Anche se questo naturalmente provoca l'insurrezione del sindacato e di molti che sono in ascolto. Il problema è che però invece non parliamo mai come si è evoluta la il profilo delle competenze richieste e offerte. Ecco, io vorrei una roba di questo genere qua. Mi dispiace anche Confindustria che dice no, noi ve ne assumiamo 1 milione invece che 300.000 semplicemente badando al dato quantitativo. Io vorrei capire che, cioè, chi assumi per fare cosa. Quindi io volevo chiedere a Silvia, perché c'è un dibattito di cose. Guarda che digitali non si nasce necessariamente. Questa storia dei digital nativi digitali è fuorviante. Digitale si diventa, anzi si ridiventa e si continua a ridiventare, perché l'innovazione è un processo continuo. Quindi l'idea che il mondo si è spaccato fra quelli che non saranno mai più digitali sono perduti. Non è vero, Facebook ha dimostrato che sono arzille vecchiette che organizzano tornei di canasta a 75 anni, bravissime, no? In compenso giovani, diciamo un po' svogliati, che la usano semplicemente come intrattenimento. Come si fa a puntare sull'employability digitale, Silvia, e non semplicemente sulla qualificazione statica? Come fanno le imprese e le organizzazioni a puntare sulla formazione permanente sul digitale? Beh, innanzitutto cambiando forma mentis, perché innanzitutto devono realizzare e ottenere la consapevolezza che questa è, diciamo, l'unica mossa possibile per potersi pensare ancora attivi e ancora produttivi tra 3, 5, 10 anni. Quindi in primo luogo avvertirne l'urgenza, cosa che non è banalissima. Prima si citavano gli articoli con i 20 segreti per vendersi online e in qualche modo si deprecavano, ma la verità è che manca totalmente una consapevolezza del fatto che essere oggi significa anche essere digitali, che tu abbia 20 anni o che tu ne abbia 40 o che tu ne abbia anche 60, perché oltre che a organizzare i tornei di canasta ci sono sessantenni che si diplomano online o che comunque aumentano le loro competenze e le loro conoscenze. Come aumentare l'occupabilità e l'employability? Evidentemente ci sono a disposizione diversi strumenti. È prerogativa del direttore Ricciardi, che si occupa di risorse umane, venirne a conoscenza. È prerogativa di chi si occupa dell'organizzazione fare innanzitutto una mappatura delle competenze e capire quali sono gli obiettivi strategici dell'impresa nel medio periodo. Nel lungo, sinceramente, io sono un po' perplessa perché cambiano in continuazione. Quindi quantomeno nel medio capire dove sono le lacune e successivamente andare a fare programmi di formazione che coinvolgano tutta la popolazione aziendale. Pensare ai classici esempi di reverse mentoring: ci può essere il 25enne strasmanettone strabravissimo oppure strapigro dall'altra parte. Il primo potrà andare a insegnare a una persona più senior come attrezzarsi digitalmente, mentre quest'ultimo potrà a sua volta dare altri tipi di informazioni e nozioni al più giovane. Non dimentichiamoci che affronteremo un tema demografico dal punto di vista organizzativo. Avremo insieme i cosiddetti millennials, più o meno digitali, più o meno nativi digitali, sono d'accordo che non è qualcosa che derivi semplicemente dall'anno di nascita, ma avremo anche persone di 65-70 anni e succederà a brevissimo e in alcuni casi sta già succedendo. Sta già succedendo. Senti Silvia, domanda, abbiamo un minuto. Senti, una domanda, secondo te i giovani sono consapevoli del fatto che quello che scrivono in rete sarà quello che gli HR director vedono? Assolutamente no, e lo vedo da due punti di osservazione privilegiati. Il primo è che ho la possibilità di andare a fare sia in Italia che all'estero moltissimi incontri con master piuttosto che università, e chiedo ai ragazzi costantemente questa domanda e mi spaventa davvero il loro grado di inconsapevolezza. In seconda battuta, da anni mi occupo di un osservatorio di social recruiting, ovvero appunto di recruiting attraverso i social network, e proprio questa è una delle domande che andiamo a fare, ovvero quanto pensi che quello che dici online andrà a impattare sul tuo percorso professionale se magari fosse visto da un selezionatore, e la consapevolezza è bassissima. Paradossalmente è più bassa nei giovanissimi, proprio perché sono abituati a dire tutto e a sviscerare tutto, piuttosto che nei trentenni, che invece si fanno un pochino più di riguardi. Però è vero, ed è assolutamente così, lato recruiter, quindi lato società di selezione, che moltissime candidature non arrivano a buon fine perché magari il CV ricevuto era ottimo, ma una breve analisi delle referenze online e della presenza digitale di questa stessa persona si è rivelata poi inconsistente o inadatta rispetto al profilo ricercato. A maggior ragione, quindi, serietà e impegno, non solo per quello che scrivi, anche per quello che leggi online, che è importante. Quindi online è un pezzo della tua professionalità che ti piace o meno, permanente, caro Oscar. Quello che leggo, però, c'è cioè la profilazione, la sa, lo sa Google, la piattaforma, non la sai tu dell'impresa, voglio sperare, però ti puoi sempre comprare la profilazione. Parliamone. Va bene, questi stanno disperati, allora io parlo ancora di più, così faccio la parte del tagliato e censurato, perché io do questo voto alle imprese italiane sulla rete. 5 non sono sufficienti, mi dispiace, vi boccio anche voi. 5 dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci tornati in diretta con i compari dei conti della belva. Renato. Carlo Alberto Carnevale Maffè. È collegato con noi, c'è sempre Mario. Mario. Mi dai un secondo, che prima che arrivi la Marta Cagnola, che mi ha già detto mi vuole che cosa addentare nei garretti. Mi sono espresso male, mi devo scusare prima. Scusa. Perché quando ho presentato la Silvia, ho detto donna e mamma. Silvia Zanella, sì. E mi è stato giustamente detto che nessuno mi presenterebbe come padre, eccetera, eccetera. E purtroppo è proprio perché io sono abituato con i miei colleghi che pensano sempre che ci siano dei limiti e il famoso cielo di cristallo per le persone per diventare manager globale. Quindi è ancora tra voi una notizia che sia una manager brava, bisogna dire prima che è una doma. Ahimè sì. Robe beh, da dai, i miei colleghi li conosci bene anche tu. Mario, dai. Però io volevo sapere anche la tua di opinione. Nella tua esperienza o impressione, hai cambiato lavoro da non troppo, hai lavorato in importanti banche, eccetera, eccetera. Secondo te la consapevolezza media che hai visto nella domanda e nell'offerta di competenze, nella ricerca di competenze, sia lato aziende sia lato di chi si offriva sul mercato del lavoro, dovessi dare un voto in termini comparati, mio è 5, ma penso di essere generoso. Il tuo qual è? Ma guarda, premesso che io non ho mai lavorato in aziende manifatturiere, quindi esposte ad un certo tipo di concorrenza che induce la spinta all'innovazione, io ho lavorato prevalentemente nel settore dell'asset management, soprattutto e lungamente nel settore del credito, dove diciamo si potrebbero dire molte cose, ma penso che me ne asterrò. Sicuramente non si può parlare di innovazione, se posso, caro. No, ma infatti, e guarda, l'unica innovazione prevalente in quel settore è quella di marketing, il che non mi sembra esattamente un titolo di merito, nel senso, viste le cose che vengono collocate ai clienti, e quindi questo è un concetto che non, così, sul quale non andrei a dare giudizio, a stabilizzare, ma... però probabilmente diciamo che le aziende tendono ad operare con una certa lentezza di ciclo e con avanzamenti solo incrementali, quindi c'è tempo. Però lasciami dire solo una cosa, sì, proprio su quello che dicevi tu. Tu giustamente dici non bisogna più focalizzarsi sulla dicotomia tempo determinato, tempo indeterminato, perché le cose stanno evolvendo, eccetera. Ma allora, noi solo su quella. No, noi solo su quella, perché evidentemente ci esprimiamo a slogan, però veniamo condotti ad esprimerci a slogan da chi fa merito di cose che non stanno. Ma questo volevo appenendo. Dire. No, questo volevo però dire. Quello che io, certo, quello che io voglio dire però è che il discorso della formazione e riaddestramento, la formazione permanente nella quotidianità sull'evoluzione tecnologica digitale deve comunque essere compatibile con un minimo di concetto di stabilità occupazionale. Sì, certo. Perché voglio dire, non tutti sono o siamo super consulenti che arrivano in un'azienda, ci restano 20 giorni, lanciano le slide e se ne vanno, no? Cioè, voglio dire, ci sono anche quelli che devono formarsi on the job, e soprattutto c'è l'interesse degli imprenditori ad avere un capitale umano che per certi aspetti finisce con l'essere anche idiosincratico, cioè specifico ai processi produttivi. Quindi è importante sottolineare questo. Bene che non c'è più il posto fisso. No, no, ma il mio non era un inno alla precarietà. Dico solo che le funzioni e i tempi nell'accelerazione delle innovazioni. Industria 4.0 è una colossale ondata di riaccelerazione delle modalità organizzative, di brand, politica fornitore, cioè non della mera linea produttiva come pensano molti, da fordismo ad automazione. No, è una rivoluzione. Quindi questa, in queste ondate, nelle rivoluzioni, ci sono professionalità che sono richiestissime per i tempi di comprensione, avvio, scouting, realizzazione della rivoluzione, dopodiché si passa a quello che dici tu, cioè al radicamento delle nuove competenze, modalità, organigrammi, mansionari si chiamavano nelle vecchie modalità fordiste, di chi in azienda c'era, c'è, resta ed è la coesione sociale dell'azienda e del tempo indeterminato. Figuriamoci, io non faccio l'inno al precariato, dico solo che stavamo parlando con un occhio molto attento all'ondata rivoluzionaria che in teoria noi dobbiamo augurarci che avvenga. Se noi la paventiamo perché significa tempo indeterminato, vuol dire che vogliamo ancora meno produttività nel nostro paese. Ecco, questo io dico. Ma hai ragione, non deve sembrare l'inno a tutti per strada ogni mese, sennò sarebbe la follia. Figurati, già i giovani qua hanno meno reddito, meno patrimonio e così via, non possiamo aggravarli ulteriormente. Ecco, la rivoluzione sui giovani, invece della mancetta sulle pensioni integrate a 600 euro tra 20 anni, dovrebbe essere: prendiamo in considerazione i profili e di competenze dell'offerta e della domanda su cui misurare gli incentivi permanenti e non a tempo. Io la vedo un po' così. Cominciamo con le telefonate. C'è in particolare Andrea da Milano, che c'ha poco tempo ma ci teneva a intervenire. Perché ci tenevi, Andrea? Perché? Allora, tanto per un motivo, perché essendo stato studente del professor Carlo Alberto, sono però in disaccordo con lui sulla gestione settimanale delle tempo. Bene Andrea, grazie, vuol dire che vi abbiamo insegnato a dissentire. Non iniziare a intimorirlo. Grazie, vai. Oltretutto c'è una motivazione, io lavoro in Inghilterra, quindi poi interverrò anche sulla gestione dei giovani e del lavoro, se me lo lasciate fare. Ma ancora più importantemente, siccome il problema che portava avanti il professore è un problema interno all'azienda, cioè di reportistica, cioè di business intelligence, cioè di possibilità di fare una reale fatturazione a livello settimanale, quindi a livello sempre comunque comparabile, questo è un problema di reportistica, non è un problema di fatturazione. Che venga io fatturato una volta al mese, due volte all'anno, se vogliono fare una comparazione settimana su settimana, è sul fatturato, non è sulle fatture emesse. Quindi questa è, a mio parere, ma qui è una risposta al professore, un escamotage capzoso per fare in modo che ci sia un aumento di prezzo che venga percepito in maniera diversa. Oh, l'accusa del professor Carlo Alberto che aveva fede di nascondersi dietro il reporting e il billing invocando la libertà, ma in realtà sta difendendo il potere di esercitare un potere di coazione aggiuntiva sul cliente e dalla parte del cartello. L'abbiamo beccato, professore bocciato. Ma oltretutto, purtroppo io faccio lo stesso lavoro del professore, non a caso mi ha insegnato talmente bene. Cresci consulente, Faccio il consulente anch'io, lo ammetto, è una problematica che poi... Ci dica rapidamente voto comparato imprese italiane e imprese quelle che vede lì invece come utilizzo. Dunque, web. Io sono purtroppo nel settore e quindi la differenza è notevole, soprattutto perché addirittura io posso dire nella mia esperienza personale il mio lavoro addirittura non esiste in Italia. Io faccio un lavoro che ha a che fare con il mondo digitale e non esiste nemmeno la mia figura professionale, tant'è che io mi sono dovuto spostare in altri paesi proprio per la mancanza di comprensione. Un voto non molto verso la sufficienza di quello italiano. No, non molto verso la sufficienza, però devo dire anche un'altra cosa rispetto a quello che diceva lei poc'anzi, rispetto alla realtà di una idea di lavoro a tempo indeterminato. Sì. Il lavoro a tempo indeterminato è una bugia che ci stiamo dicendo da moltissimi anni. Perché questo fa pensare che esistano aziende eterne. Le aziende non sono eterne. L'unico modo di avere un posto a tempo indeterminato è avere delle competenze che lascino la tua professionalità a essere sempre e comunque in demand. Lo so, detta così appare molto contundente, però. Allora, questo io la ringrazio, ma grazie Andrea, grazie. Siamo molto in minoranza, attenzione che sa dove vivi, il professor Galberto già sta, vedo che sta attivando satelliti, cose, voglio sapere dell'apparato dello Stato. Sono orgoglioso invece di avere studenti così che vanno all'estero a farsi onore e che sono critici nei confronti dei propri professori. Bene, bene. Su questo benissimo. Gianni da Vercelli, rapido Gianni. Buongiorno, senta, a parte quello che ha detto lo scortatore precedente, volevo far notare una cosa, che Infostrada fa pagare un addebito di 0,63 o 0,67 per il fatto che lei deve riscuotere i soldi che noi dobbiamo versare, per cui io facendo l'addebito diretto in banca praticamente devo pagare un contributo di 0,63 centesimi per il fatto che devo pagare loro, tutto qua, oltre a quello che ha detto prima lo scortatore precedente. Va bene, grazie. Va bene, va bene. Grazie va della bene. Segnalazione. Effettivamente, nelle pieghe del billing ci sono tante aree di scarse di trasparenza e quelle vanno sanzionate. Oh, caro Oscar, forse non è chiaro. Ma no, ma ogni mancanza di trasparenza va sanzionata. L'obiezione che condivido, fatta dal tuo ex allievo, che dice: no, la libertà. Non solo la facoltà, magari. Ma la libertà del billing non ha niente a che vedere con le fatture emesse, perché aumentando il numero di fatture emesse è semplicemente un modo per incassare di più. Io non ho capito la tua risposta concreta quale. Ma no, è la riconciliazione fra flussi di incassi e costi che sono base settimanale, invece è un tema centrale di efficienza, ma già smarcato. E non è oggetto Carlo dell'analisi Albert. Dell'Agicom. Carlo voglio Albert. Ricordare che il problema non è Carlo quello, Albert. Il problema è sull'informazione. Carlo, la scorsa settimana ti sei lasciato sfuggire più di una volta, poiché eri ristretto esattamente come adesso, la cosa scendò. Ma scusate, stiamo parlando del comparto, del settore in cui la diminuzione dei prezzi 42%, sì, 42%, il triplo che in Europa. Che ha fatto capire che dice: e queste benedette imprese da qualche parte se ne dovranno riprendere i soldi. Ma com'è nostro? Dici tu che io non posso aumentare i prezzi, lo dice l'Agicom, certo, torniamo al comunismo delle tariffe. Ma stiamo scherzando! Non col trucco delle fatture emesse. Ma che trucco? Ma che il trucco è: se c'è disinformazione, allora è grave e va sanzionato. Ma che adesso mi venite a dire che non si possono aumentare i prezzi perché lo dice l'Agicom? Ma figurati, scordatevelo! No, noi non stiamo parlando. La metti in cacciara. Noi stiamo parlando i mesi di 28 giorni apposta per non fare. Non c'è una un mese di 28 giorni, c'è una tariffazione a base settimana. Il mese di 28 giorni è una assurdità. Se perdi la calma, vuol dire che non sai che sei sul ghiaccio sottile. Solidissime basi economiche. Sta urlando. Voi fate ideologia. Ma scusa, aspetta, sirena subito. Il professor Alberto Carnevale Maffè, mettiamogli immediatamente. Portatelo via. Aiuto. Scusa, ma Mario, glielo vuoi dire anche tu? Ma no, ma allora, intanto, anch'io sono d'accordo che non deve essere un'authority, un'agenzia governativa a fissare la tariffa, perché qui non parliamo di prezzi amministrati. Certo. Però, Carlo Alberto, tu sai meglio di me che qui siamo in un contesto di oligopolio che si sta accentuando, perché il numero di player è tendenzialmente in diminuzione, e dall'oligopolio all'oligopolio collusivo il passo è breve, e poi abbi pazienza, io vorrei che le aziende avessero le palle di dire: sai che c'è, gli investimenti costano, noi stiamo spendendo molto, ti chiedo un aumento di X%, non di usare questa behavioral economics de noantri e dire tariffazione a 28 giorni, perché poi, perdonami, la riconciliazione tra flussi di entrata e costi è un ragionamento che mi sembra un po' deboluccio. Per non cui, lo è Mario, non lo è assolutamente. Ma non lo statalismo, ma neppure attenzione alle pratiche collusive di pochi player e anche a questa behavioral economics de noantri, perché cioè canne sciun e fesso. Comunque diciamo. Nessuno in Agicom ha messo in discussione la legittimità dell'aumento dei prezzi, stanno discutendo legittimamente dell'informazione. E quindi voi siete completamente off topics, ragazzi, nessuno qua ha argomenti economici sui prezzi, nessuno, tirateli fuori per favore, che quelli che avete detto non li compro. Stanno venendo a prendere le porte, stanno venendo. Ci vediamo molto presto. Ci sentiamo tra poco. Il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin nel banco freezer. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. so, ma non lo dico. E ragazzi, arriverà la prossima settimana la nuova versione in pugliese di questa sigletta dell'angolo del consumerismo, ma che paese straordinario è il paese di Seminerio. Questo esatto. Io ve lo dico da adesso, che ne abbiamo, perché no, mi hanno fatto morire questa settimana, me ne hanno mandato una versione, però non ho potuto mandare in onda perché il seguito parlava di imprese di Seminerio che non possiamo andare in onda in questa fascia. Ma chi non ti manda tutte ste cose? Non so, tu devi aver seminato nella vita, Mario. Non so, io certo, non ho gli strumenti per capire, però facevi il consulente, ma insomma non era dirimente l'attività del solo consulente, per così dire. Va bene. Comunque arriverà il paese straordinario, grande Seminerio. Però noi questa settimana mettiamo, perché questa sarà la nostra strategia, noi tuteliamo i consumatori, in questa categoria facciamo rientrare quello che di solito è raro vederci, cioè noi poveri contribuenti, perché questa settimana in questa rubrica abbiamo un commercialista che ci ha scritto perché ha caro ciò che sta avvenendo, diciamo, per una delle accelerazioni inventive, fantasiose, fisco creativo è da sempre uno strumento di un ordinamento che è la ricerca di nuove pozzi in cui dissetare la sua sete, che incommensurabilmente, asintoticamente, inarrivabilmente è sempre superiore a ciò che arriva dall'ordinamento precedente. Quindi bisogna farlo evolvere, bisogna trovare nuove modalità, bisogna naturalmente dipingere di lotta all'evasione, perché come sempre sono gli italiani che sono il grande problema del nostro paese, mica lo Stato che spende vuole sempre di più. E quindi ecco, per esempio, l'esempio di quest'anno è: rimettiamo mano allo spesometro, le modalità di comunicazione, ma perché i dati li avete già? Ma voi ridateceli ogni 3 mesi, ma questo costa, cari miei, dovete pagare, eccetera eccetera. Volete, allora, fare impresa, pagate. In questo lungo romanzo, perché nel frattempo appunto legge annuncio, obiezioni non ascoltate, prima scadenza che arriva, non arrivano le circolari, il software mica è pronto, o meglio è pronto, l'ho comprato ma è cambiato, ma che cazzo, nuovi costi, ma porca, allora intanto si paga, ma no, c'è la proroga, ma io ho pagato prima, stupido, non dovevi pagare prima, aspetta la nuova proroga. E questo è l'andamento che va sotto il titoletto spesometro quest'anno. Una follia per i professionisti tributari, una follia per i loro clienti e invece una gran faccia di tolla per chi rappresenta l'amministrazione tributaria, perché si vanta di questa roba, si vanta. E mi dispiace, come al solito, i lavoratori dipendenti che non capiscono, perché dicono: ma vi inventate le difficoltà che non avete, pensate a noi. Gianmarco Marsidi, commercialista, quindi una delle professioni più vicine al Golgota, asceso ogni giorno, perché si becca lo Stato che gli dice: guarda che tu sei responsabile per il tuo cliente, paghi in privato, amministrativamente, in solido. E il cliente: miserabile, sei diventato un agente di Stato. Non invidio i commercialisti, perché questa è la condizione in cui sono finiti. A che punto siamo con lo spesometro? Ho esagerato? Ha detto le cose come stanno. Volevo fare una premessa comunque, per quanto riguarda l'industria 4.0, in cui lei ha dato il voto 5 agli imprenditori. Noi professionisti, noi commercialisti, sono oltre 20 anni che stiamo lavorando con le trasmissioni telematiche e quindi abbiamo inviato centinaia di milioni di flussi informatici, dichiarazioni fiscali, IVA, 770 CU, abbiamo fatto supinamente tutto quello che ha detto l'Agenzia delle Entrate. E quando ci siamo lamentati sulla digitalizzazione fiscale, perché c'era qualcosa che effettivamente non andava. Noi con l'informatizzazione ci viviamo. Noi potremmo tranquillamente lasciare penna e carta, perché noi lavoriamo solo ed esclusivamente con i computer. Ma il problema adesso è diventato paradossale con l'invio dello spesometro, in quanto è cambiata completamente la procedura. Noi continuiamo ad operare con la procedura Entratel desktop telematico, che viene utilizzata quotidianamente, chissà per quanto tempo ancora, e ci stiamo adeguando, ma è diventato ormai un lavoro impossibile, alla nuova piattaforma fatture corrispettivi per inviare lo spesometro. La prima scadenza era il 31 maggio, poi è stata posticipata al 25 luglio, poi al 18 di settembre, poi al 28 di settembre, non si sa a quando ci sarà la prossima proroga, perché il sistema non funziona, è stato strutturato troppo in maniera semplicistica e insufficiente. Questo è il grande problema nostro. E di fronte a questo, però, lo Stato, quando chi rappresenta lo fa presente, come risponde? Ma lo Stato cerca di tamponare. Noi purtroppo con lo Stato abbiamo a che fare direttamente con la piattaforma online, che loro malgrado non riescono a rispondere alle nostre esigenze. Non hanno messo un software compilativo, non hanno messo un software di controllo, hanno promesso che metteranno questi software. La procedura è solo ed esclusivamente online e quindi costituisce un collo di bottiglia spaventoso, in quanto nel momento in cui si vanno a collegare decine, centinaia di persone, il sistema va in tilt. Ma va in tilt già dal 4 di agosto, quindi in un periodo diciamo non caldo per quanto riguarda la trasmissione telematica, già accusava dei grandi problemi. Il 18 adesso ci sarà la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, hanno posticipato quello spesometro al 28 perché altrimenti sarebbe stato impossibile. Un inciso, se andate in questo momento sul sito dell'Agenzia delle Entrate, io in questo momento mi ci trovo, trasmissioni, dati, fatture e comunicazioni periodiche IVA scadenziario, è riportata, tra le altre cose, ancora la scadenza del 18 settembre 2017. Ma non c'è dubbio, scherziamo, ma è ovvio. E qui stiamo parlando della quarta, quarta proroga, cari ascoltatori, lo so, dice state parlando arabo, ma noi poveri lavoratori autonomi e i commercialisti che lavorano per noi, a questo siamo costretti, chi ha una piccola impresa è sottoposto a questo regime, a questo questa è la vita, cioè appesi al filo di una scadenza che non si sa se rispettare, perché non si è in grado di rispettare tecnicamente, perché il software a disposizione non lo soddisfa. Quello è il motivo. Ecco, quindi non stiamo parlando della vita di evasori incalliti, stiamo parlando della vita che butta l'anima, sangue, soldi e tempo per tentare di andare dietro alle scadenze e alle modalità, perché il software 4 è la modalità fissata dallo Stato, che lo Stato stesso prende così sul serio che arriva alla quarta proroga, naturalmente dicendoti che la scadenza, se vai sul sito, è ancora quella non della proroga. Ecco, questa è perché è un comunicato stampa, cioè, questa è la fotografia. Dopodiché il politico va in televisione e si vanta dei dati del precompilato, che è un flop clamoroso. Lo vogliamo dire, Marsili, che il precompilato è stato un flop clamoroso? Ma è stato certificato anche da Ruffini nell'audizione alla commissione del Senato, alla Camera bicamerale, qualche giorno fa, che ha detto, leggo testualmente, che si è passati da 1,4 a 2,3 milioni di 730 precompilati su 20 milioni, quindi parliamo di percentuali risibili, e solo il 15% di coloro che hanno compilato il 730 precompilato, scusate il gioco di parole, hanno accettato il conto predisposto dal fisco. Quindi io dico, di cosa stiamo parlando? Esattamente, c'è una roba che dovrebbe indurre lo Stato a dire, così abbiamo imparato una cosa, così non si fa. Esatto, ecco, ma esatto. Invece questi continuano a dire no, di una roba. Io vi invito, cari lavoratori dipendenti, per favore prendete in considerazione questa roba, quando, visto che vi hanno detto che era tutto risolto per gli autonomi che tanto si lamentano degli obblighi per gli adempimenti, perché tanto c'era già tutto, andate a vedere a quanto sono pesanti e quante centinaia di pagine sono le istruzioni per il 730. Andate a vedere di che cosa stiamo parlando. Per il 730 stiamo parlando di 111 pagine più 324 pagine di circolare dell'Agenzia delle Entrate, eccetera eccetera. Questo viene spacciato per semplificazione, Marsili. Sì. Questo è il grande problema. Il grande problema è ancora a monte. Devono semplificare le norme, perché parlando del 730, codificare tutte le centinaia e le migliaia di possibili situazioni tributarie che un singolo contribuente non titolare di partita IVA, quindi un semplice lavoratore dipendente o pensionato, è impossibile. Si deve lavorare prima a monte, regolarizzando gli oneri detraibili, deducibili, le forme di reddito, eccetera. Poi si può cominciare a parlare di semplificazione. Adesso parlare di semplificazione procedurale con le norme attuali è impossibile. Benissimo, torniamo tra un minuto. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Questo è da sfascio. Sì, da sfascio. Assolutamente. Decisamente da sfascio. Decisamente da sfascio. Nessuna automobile sfugge a questo ineluttabile giudizio universale. È una legge economica e psicologica. L'industria dello sfascio è la più piccola industria che prospera ai margini del mondo delle automobili, il simbolo della nostra furia di superarci e di fare a pezzi il passato. Allora, dalla scorsa settimana, come vi abbiamo detto, abbiamo scelto questa rubrica fissa, si alternerà con altre, ma insomma sarà presente per tutto quest'anno, con questo tono apodittico in cui nella televisione pubblica di bianco e nero degli anni 60 si insegnava un rudimento del nuovo consumo di massa, cioè bisogna che i beni di consumo siano durevoli ma non troppo, perché bisogna comprarne e poi produrne degli altri. Questo mantra applicato alla politica, il rinnovamento eccetera eccetera, è stato formidabile in tutti questi anni e così via, no? E da tempo sarebbe venuto il momento di riflettere. La scorsa settimana l'abbiamo fatto con un protagonista, questa settimana ve ne proponiamo un altro. Di difetto fuori da ogni moralismo, è ovvio che i politici non devono stare tutta la vita, è ovvio, ovvio, ovvio. È altrettanto ovvio che il nuovismo a volte fa i conti spesso con incompetenza, incoerenza tra il dire e fare, eccetera, eccetera. Allora, per discutere su questo, dal suo punto di vista, dalla sua area culturale, virgola, che è scomparsa dopo la fine della prima repubblica, nella seconda, anche se molti se ne sono avvocati la rappresentanza tanto nel centro-sinistra quanto nel centro-destra, abbiamo chiesto a Claudio Martelli, che è stato, ve lo ricordate, ma se non ve lo ricordasse, un protagonista fondamentale della storia del Partito Socialista Italiano negli anni, fino agli anni 70, anni 80, è stato vicepresidente del Consiglio, è stato ministro di Grazia e Giustizia, è stato l'uomo che su Falcone, quando Falcone era odiato da chi oggi lo incensa, puntò tantissimo, sì, Falcone Giovanni, e così via. Claudio Martelli, grazie di essere con noi. Buongiorno, eccomi qua. Dal suo punto di vista, socialismo riformista, autonomista, ne avesse avuto di più e prima l'Italia, dico io, quello che è successo, cioè la scomparsa di una rappresentanza diretta e la vocazione da parte di altri della rappresentanza di quest'area, cosa ha portato rispetto all'andamento dell'economia e della società italiana? A noi interessa molto l'economia e il suo punto di vista su questo in questi vent'anni. Beh, bisognerebbe fare un po' di conti. La grande accusa che si rivolge alla Prima Repubblica e anche ai socialisti, al governo Craxi, è quella di avere dilatato il debito pubblico. Ora, in verità, il debito, quando Craxi diventa Presidente del Consiglio, era già al 70% e con Craxi sfiora il 90%. Dopodiché è aumentato di altri 40 punti con la Seconda Repubblica e questo debito non è più in lire, e quindi in qualche modo sotto il nostro controllo, tra virgolette, ma è un debito in euro e dunque sotto la tutela collettiva dell'Unione Europea, che non consente svalutazioni di comodo. Quindi sicuramente anche sotto questo aspetto, per non parlare degli altri, c'è stato un aggravamento della situazione. Io non credo neanche che ci sia questa differenza, come dire, costituzionale tra la prima e la seconda repubblica. Penso che continuiamo a girarci tra le macerie della prima repubblica e naturalmente questo ha delle conseguenze, perché ci si muove in un teatro appunto di in qualche misura di fantasmi, in altri casi di abusivi, in altri casi ancora di improvvisatori superficiali. La scomparsa della cultura politica socialista, io mi sono sempre considerato un liberal socialista, ma lo era gran parte del PSI negli anni 80, sì, sì. È come la scomparsa di altre culture politiche, perché anche quella cattolico-democratica, che pure si è disseminata su vari fronti, non ha più un luogo proprio. Oggi si potrebbe dire le cose un po' cambiate, perché Renzi si è impadronito del PD e ne ha fatto un partito diverso rispetto a quello post-comunista. Su questo non c'è dubbio, e lo considero un grande merito in verità. La stessa cultura comunista non c'è più, per quanto fosse una cultura come dire, obsoleta già molto prima del crollo dei muri, tuttavia aveva una sua coerenza e una qualche addirittura che in certi momenti, se non altro, è stata utile. Penso alla lotta al terrorismo, non penso invece alla sciagurata intesa tra Agnelli e Lama in rappresentanza del mondo comunista, che produsse un'impennata dell'inflazione di dimensioni paurose, che poi per essere domata richiese molti anni. In generale, quindi, ho la sensazione, ma sempre questo, per la verità, non riguarda solo l'Italia, la democrazia vive di aggiustamenti continui, di cambiamenti, sì, certo, frequenti, di riforme graduali, in definitiva vive di rinnovamento, ma anche molto di continuità. Spezzare invece una storia politica, radere al suolo i partiti che bene o male avevano governato il paese, traendolo fuori dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, portando a essere la quinta potenza. Insomma, bisognerebbe ricordare, quando si parla degli anni Ottanta, una crescita che negli anni del governo Craxi supera il 3%, 3,5%, 4%, arriva sino al 4,5%. Bisognerebbe ricordare che la lira conquistò la AAA come una moneta solidissima. Ricordare lo sviluppo industriale di quel periodo. Avevamo capitani d'industria, parlo dei Romiti, parlo dei Benedetti, parlo dei Berlusconi, che tentavano di conquistare posizioni di rilievo in Europa, in Francia, in Belgio, talvolta addirittura in Inghilterra. Superammo la Gran Bretagna in quel periodo ed eravamo quasi alle spalle della Francia nel prodotto interno. No, quindi i risultati erano quelli. Nella mia esperienza di allora, giovanissimo a Palazzo Chigi con Spadolini 88-82 e poi dopo, eccetera, eccetera, troppi anni per capire il guaio. Condivido integralmente quello che ha detto Claudio Martelli, fatto con il punto unico di scala mobile dalla Confindustria di Agnelli, che aveva in testa di fare il presidente del Consiglio, non dimentichiamocelo mai. Il primo grande imprenditore italiano che ci ha provato è stato lui, e fu bloccato dai grandi partiti quando la politica era in grado di bloccare un imprenditore. Fu bloccato e ci mettemmo anni e la cosa poi ebbe bisogno di un referendum di Craxi per riuscire a risolvere, perché altrimenti neanche il governo Spadolini, la Democrazia Cristiana da sola, mai sarebbe riuscito a venire a capo di cos'era il problema dell'inflazione nel nostro paese, e poi il problema però della moneta non ben capito. Ma al di là di questo, io ho due domande da fare a Claudio Martelli. La prima ha a che vedere con i lunghi conti, perché voglio sapere, se ce lo vuole dire, perché capirei anche se dicesse non mi faccia la domanda, cosa ha provato ascoltando dopo tutti questi anni le parole di Di Pietro qualche giorno fa, che ha detto: io per primo ho commesso un errore perché ho costruito la mia fama politica, il mio disegno politico sulla paura delle manette, e voglio capire che effetto gli ha fatto dover aspettare tanti anni per sentirlo dire. E io apprezzo che comunque l'abbia detto, e questa è la prima domanda. La seconda è: facciamone una alla volta. Ok, vada, hai ragione. A me non ha fatto tanto effetto, perché ricordavo quello che aveva già detto il superiore di Di Pietro, Borrelli, il procuratore della Repubblica, che guidava anche il pool di Mani Pulite. Nel ventennale di Mani Pulite, Borrelli ha dichiarato testualmente: dobbiamo chiedere scusa agli italiani, non valeva la pena buttare il mondo precedente, cioè la prima Repubblica, per cadere in quello attuale, cioè la seconda. Quindi l'autocritica c'era già stata e di vasta portata. Vero, vero. Questa di Pietro è un po' più personale e aggiunge un elemento nuovo, e cioè che questo mondo precedente purtroppo ha visto come protagonista politico anche lui, il suo partito, l'Italia dei Valori, e si è assistito a questo paradosso. La Prima Repubblica cadde sotto l'accusa allora infamante di finanziamento illecito ai partiti. Ora i partiti furono distrutti, la corruzione è aumentata, e si è arrivati al paradosso che mentre allora venivano inquisiti, magari arrestati, i segretari dei partiti che si pigliavano in carica, segretari amministrativi dei partiti che si pigliavano la responsabilità di quell'illecito per tutelare il partito stesso, adesso siamo di fronte a episodi di segretari o segretari amministrativi dei partiti numerosi, lo stesso Di Pietro, ma anche Lusi della Margherita, ma anche la Lega, i quali hanno invece, tra virgolette, rubato ai loro stessi partiti. Cioè a questo paradosso abissale non si era mai arrivati, è una fattispecie sconosciuta. E come volete che si giudichi la politica se coloro che la fanno depredano i loro stessi strumenti? Non si può che giudicarli molto negativamente, e tuttavia bisogna smetterla di attribuire queste responsabilità ai partiti. Sono responsabilità che sono sempre singole, individuali. Certo, i partiti della Prima Repubblica erano responsabili anche della corruzione sistemica, come fu già definita allora, che dunque richiedeva una grande riforma e non singole iniziative giudiziarie per essere superata quella situazione, perché le singole iniziative colpiscono qualche caso, ne ignorano molti altri e non sono in grado di produrre dei cambiamenti. Ecco, io su questo, purtroppo il tempo è tiranno, io parlerei per ore, ma lo faremo in un'altra ora, in un'altra trasmissione, perché sicuramente questo impegno lo prendo con Claudio Martelli, perché penso che per esempio i partiti non si resero conto di che cosa voleva dire davvero, aveva il rapporto improprio che avevano con le grandi partecipazioni statali. Rimasero, c'erano delle voci interne e c'erano guardate in ogni famiglia politica e culturale che avesse le leve in mano delle società pubbliche, delle partecipazioni statali, che andavano nel segretario dei partiti dicendo guardate che, e lì non ci fu secondo me la capacità di capire. Visentini era uno di questi, per me era un maestro. Visentini diceva guardate che non è con cose con Leni Monte che si risolve e così via. Dopodiché l'ondata che ha travolto. Adesso però inizia a essere chiaro cosa vuol dire chi non è casta, e poi, come avete visto, dice il leader può essere un indagato. Ah, ma come ci hai detto per tanti anni, Grillo, e così via. I conti iniziano a tornare. Troppo lungo un periodo, anche in questo caso, perché il bilancio in termini di crescita del paese e di mancata soluzione dei problemi strutturali è ancora più serio. Grazie a Claudio Martelli, noi torniamo tra un minuto, andiamo a Udo Gumpel. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua, ed eccoci qua, su queste toni felliniani, il nostro appuntamento con Udo Gumpel. Udo, come stai? Io sto bene, anzi sono sconvolto. Ecco. Sconvolto. Perché? Perché mi hanno controllato ieri nel tram a Roma. No. Ma sono 20 anni che non è mai più successo. Naturalmente io, come davvero deficiente tedesco che sono, nella mia maniera curcona, io, o crucchesca come volete, avevo il biglietto timbrato già un po' di fermate prima, e quando hanno visto entrare un energumene alto 2 metri, largo 1,5 metri, con il t-shirt Attack, con il distintivo Attack, con la bandiera Attack sulla testa, si è formato una specie di gruppone, tipo sai, gratis al buffet, intorno alla macchinetta che non si sente mai, questo ratatatata, e hanno timbrato praticamente tutti. Naturalmente mi sono congratulato con questo energumene che era, diceva, sì, la mia sola presenza basta. Naturalmente la multa non c'era più da fare a nessuno, perché c'erano talmente tanti, in pratica sarebbero da catturare tutti, a multare dopo, però lui è stato molto buono e poi abbiamo conversato, ha detto hanno anche triplicato il numero dei controllori dei mezzi a Roma, e da 80 saranno adesso più di 180, 200 in servizio. Cioè, a Roma il vento cambia, sono contentissimo, la Raggi funziona. Vabbè, io sono sicuro che non tutti interpretano, esatto, la tua ironia, evidente, però detto tutto questo, ti invito a riflettere, insomma, un controllo in 20 anni è uno standard di non troppo elevata efficienza, mi pare di capire, comunque. Ma si vede che io ho la faccia di colui che ha sempre il biglietto, perciò, no, ma poi non li ho mai visti, non è che adesso non mi abbiano controllato, non mi ha visti, mentre quando andavo a Berlino a visitare le mie figlie, figli che studiano là, e vengo controllato una settimana quattro volte, no? E no, ma aspetta, così. Però lì a Berlino ti controllano perché tu ce l'hai scritto in faccia che vivi in un paese contaminato oramai. Questo è vero. Cioè, questi ti seguono dalla frontiera, ti seguono dalla frontiera. Questo viene dall'Italia, controlli sanitari, igienico-sanitari. Beh, scusami. Tu non pretenderai mica di essere più tedesco oramai, sei contaminato. No, no, ma io mi devo affrettare adesso a fare la donazione di sangue come la faccio da tantissimi anni perché io posso dire che sono stato in Germania molto tempo, il Gran Sasso, perciò non ho vissuto a Roma, nelle zone infette, mi sa che siamo già un centinaio di infetti esatto, a Roma. La donazione, no? La donazione non puoi farla, sono bloccate lì a Cuncunca. No, chi non è stato a Roma, chi non ha avuto contatti con romani, chi non parla romanesco, può farla ancora nella sua ASL, tranne che fosse la ASL Roma 2, che è quella che è proprio chiusa per le donazioni. Senti, ma tu voti di persona o mandi il voto postale per la Germania 24? Io sempre postale ho votato, anche alcune volte che c'ero ho votato di persona, altre volte quindi postale. Quindi l'hai già mandato? Sì, certo che hai votato, ma mica ti dico chi voto. Ma io figurati se ti chiedo chi voto, io ti dico, ci mancherebbe. Ti dico solo chi non voto, deficienti, chi non ha visti dell'ASL, quelli non li voto certamente, ma tutti gli altri... Sono candidati potenziali, l'FDP devo dire, tranne i liberali, perché loro hanno una politica economica che riporterebbe la Germania ai tempi anti-Draghi per eccellenza, che rovinerebbero l'Europa, l'euro e tutto il progresso che la Germania ha. Allora devi sapere che a me anche, sta no? simpatico il leader dell'FDP, perché non era un compito facile quando gliel'hanno data in mano, non era facile. Ti sega le gambe con la sua politica. Però no? devo ammettere io se fosse in Germania questa volta avrei quasi sempre votato FDP, con Genscher, grandi personalità liberali, liberali. Però FDP, però questa volta mi porrei il problema se se avessero un rilievo tale nel governo da influenzare la posizione del governo tedesco nelle sue scelte sulla nuova architettura dell'Europa, non tanto sui migranti ma sulla nuova architettura dell'Europa, sulla BCE. Cosa capiterebbe a due cose, non solo alle politiche europee, ma di nuovo alla percezione della Germania in Europa? Siccome io sono convinto che stiamo andando a un paio d'anni di grandi scelte di una nuova architettura europea, mi auguro che avvenga, no? Secondo me la sottovalutano gli amici liberali tedeschi, che la loro scelta paradossalmente otterrebbe l'effetto opposto, di peggiori scelte in Europa. Questa è la mia opinione. Però l'idea di Jens Weidmann di come presidente della BCE, successore di Draghi, dici questo? Per esempio. Però ecco, c'è stata una reazione delle forze politiche tedesche al discorso, lo Stato dell'Unione, fatto da Juncker i giorni scorsi. L'Italia e la Francia, proprio ieri, in questi giorni, si sono espresse favorevolmente. Volevo sapere qual è il dibattito in Germania e secondo te qual è il giudizio che dobbiamo dare in Europa di queste ipotesi di riforme istituzionali che Juncker ha messo sul tavolo. Ma in linea di massima è favorevole, perché la Germania spinge da tempo per unificare le politiche sulla finanza e sull'economia, dunque avere un ministro europeo con un vero portfolio, con un vero budget e con una parte delle tassazioni nazionali, oppure anche finanziato con la tassa sul web, che in realtà è un'attività europea, non la puoi più distinguere. No, e soprattutto bisogna evitare di fare casini. Vedremo, bisogna evitare che venga venduto un fondo monetario europeo come se fosse un nuovo commissariamento tedesco, perché questo ho già visto che i partiti italiani anti-europei hanno iniziato a farlo, noi non lo faremo perché spiegheremo di che cosa si tratta. Intanto Udo, attento, perché ti controllano e ti fermano alla frontiera, sei un italiano a tutti gli effetti. Cari ascoltatori, buon fine settimana. Grazie ciao. A tutti i compari dei Conti, ciao. Da Belva, a Mario, a Carlo Alberto, a Renato, a tutti i nostri ospiti, e appuntamento alle 8:15 di lunedì mattina come Luca Tellese, naturalmente a 24 mattina lunedì pomeriggio alle 16. L'Italia, l'Italia,